bisogno di qualcosa che mi possa far dormire. Nella testa ho una canzone che non smette mai, di una luna silenziosa, di uno sfregolar di piume in un letto senza spine. E non è una scusa, a me basta di giacere fino a quando il mio tormento passerà. Ho bisogno di una resa, non mi importa di reagire, ma di immergermi in un fiume che non scorre mai. Una volontà sospesa, non mi importa di sapere se quel volo avrà un confine o se mai è paura di planare o di cadere. So soltanto che in un soffio svanirà e ogni briciola di sale che arroventa la mia voce finalmente al mio risveglio sarà brace. Dubbio, verità sottesa, a me basta anche un barlume che a vegliare sia una stella, purché sia soffusa, e che a furia di tacere la mia bocca di silenzio riempirà. E in quel rivolo di luce che assottiglia il mio dolore, ogni raffica di vento sia di pace, sia di pace.